rimaniamo d'accordo così, magari ci sentiamo domani sera e vediamo un pochino, dai, tanto io quando salgo da Pomponio il lavoretto che mi deve fare mi ha detto che me lo fa lì in seduta stante, dice che in 10 minuti mi sistema tutto. Avanti. Guarda, io mi sto parlando anche con Pierpaolo. L'unica cosa che non gli avrei fatto fare a Pomponio è portarti quel baracchinetto lì a 15 watt. Fatelo portare a 8, massimo a 9, perché se decidi di metterci una stufa, un aiutino diciamo, non glielo puoi mettere se lo porti a 15 watt, hai capito? Devi riportarlo a lui e fartelo abbassare. Hai capito, Giuseppe? Solo quello lì. Poi, giustamente, il baracchinetto tuo fai quello che vuoi. Io, per esempio, questo che sto modulando adesso arriva fino a 16 watt. Io adesso, come adesso, sono a 7 watt di baracchino. Cappa Massimiliano, su quello mi sono già sentito con Pomponio e siamo rimasti d'accordo che il baracchino lo porta su a 8 watt, non di più. Così se capita che non sarà domani o un altro giorno ti sale il pallino di mettere un aiuto, lo puoi mettere tranquillamente, hai capito? Se invece te lo porta oltre i 10 watt, dopo devi stare riportandolo a lui, fartelo abbassare, e invece ti conviene fartelo fare meno di 10 watt, così sei tranquillo, capito Giuseppe? Cappa Massimiliano, su quello sono d'accordo anch'io, infatti siamo rimasti d'accordo con il buon Pomponio che più di 8 watt non me lo porta su. E poi gli porto su queste due fotocopie per i canali, perché questi me li ha dati, le fotocopie me le ha date un amico e la modifica dice è già stata fatta su quell'apparecchio. Piuttosto volevo dire a Pierpaolo che io stasera sono uscito per vedere questo benedetto alimentatore Pierpa e ne ho trovato due. Uno che non mi è piaciuto, era abbastanza piccolino, però ho trovato un bellissimo Intec con l'amperometro e mi pare l'altro sia per i volte, ma ti dico una bella bestiolina, mi pare che era il PS48 se non mi ricordo male. Amore, che cifra lì? Ah, se me ne ha tagliato le gambe, 120. Ah, aspetta che domani è sabato. E forse incontro quello di switching, allora non è possibile. Però ce n'è un altro normale, da 10 ampere che forse me lo dà 20 euro, una ventina di euro me lo dà. Aspetta, sono 10 ampere, è uguale a quello che stiamo usando adesso, la recinta che è anche quella da 10 ampere. E la 10 ampere a te va più che a me lo stesso, avevamo la cifra di 20 euro, va bene. Animali! Ma sai qual è il discorso che faccio io? È che quando io ho la roba degli altri sono sempre con il. Stai sempre col batticuore, anzi ne approfitto anche domani e ti restituisco anche quella cosa là, ho bella confezionata e l'ho sistemata bene, te l'ho anche involto bene, in maniera che non toccasse nel microfono e nel pezzo del cavo che andava a toccare le caricabatterie per non rovinare il guscio. Aspetta, dopo ci dico, vi siete sovravvolati con Massimiliano, dimmi, ma dopo rispondo a te. Massimiliano, dimmi cosa stavo dicendo perché non si è capito niente. No, le stavo dicendo a Giuseppe che per la cifra di 62,50 euro, che è una spesa che si può affrontare tranquillamente, un switching Proxel da 25 ampere che ti porta un apparecchio da 100 watt, 62,50 euro portato a casa. Massimiliano, lo so, guarda, io vorrei fare tante di quelle cose per il... però cavolo, adesso è una grossa cifra per me. Già lo so, piano piano va. Piano piano, però anche quello che dice Pierpaolo, diciamo che non è male, non è male, perché io, guarda, io un alimentatore da 10 ampere ce l'ho, capito? C'è un'altra cosa a parte con 10 ampere, e ti dico la verità, io ci ho attaccato anche il 747 e l'ho portato bene. Dai, speriamo che almeno quello possa andare in porto, perché credetemi, ho girato in lungo e in largo cercando anche questo alimentatore, però porca miseria, cazzo, una spiga addosso che è qualcosa di micidiale. Per il momento a lui gli vanno bene. Aspetta, il padre, avete parlato in due, cos'è? Ho detto che ha avuto tante spese Giuseppe in questo momento, per l'antenna, per tutto, e quindi piano piano si ci deve accontentare anche andando piano piano, capito? Non è vero Giuseppe, guarda, per me l'alimentatore io non devo usare questo, io per me puoi tenerlo anche quando vuoi, non ci sono problemi per quello lì, non ti devi fare, ti rispondo a quello che hai detto poco fa, se ti fai preoccupare del mio apparecchio e l'hai impacchettato, ma no, non devi impacchettare assolutamente, non lo devi sentire così, no, non ci sono problemi. Per quanto riguarda l'alimentatore, non deve mettere problemi, lo puoi usare tranquillamente, no, non farti problemi, no, cioè, se hai il problema che stai usando la cosa degli altri, non te ne preoccupare di quello, puoi usarlo finché vuoi. Poi quando un giorno poi che riesci a prenderlo, allora mi dici te, riprenditelo, non ci sono problemi. Io non so la tua paura che possa succedere un guasto può succedere a te, può succedere a me, non ci sono problemi per quello. Pierpa, io ti ringrazio, ti ripeto, se non fosse stato per te, sia per l'alimentatore che per il baracchino, che guarda, non so chi l'avrebbe fatto una cosa del genere, io nel periodo che ero senza sicuramente non avrei modulato, a meno che non avrei acceso il fuoco sul tetto e mi sarei messo tipo a pasce con i segnali di fumo. Tu hai impacchettato e dici non c'hai il canagliato. Per me se quando mi serve a me, tu lo puoi anche utilizzare, non ci sono problemi, ti ho detto. Quando mi serve, lo puoi anche mettere in mostra. Quando mi serve, se mi dovesse servire, te lo chiedo, non ci sono problemi. Lo so Pierpa, purtroppo io dico purtroppo tra virgolette, però è un bene che sia così, e la cosa degli altri va sempre trattata meglio, e perlomeno io la tratto sempre meglio della mia, perché come ho preso questo 48 qui, il tuo l'ho subito messo da parte, perché è giusto che sia così, dai Pierpa, non è, magari sarò anche sbagliando io mi interpretandola così, però non lo so, Pierpa, dimmi tu. Ma infatti stai sbagliando, io avevo tutto in terra. Ah, sei in terra, costa un pacco di soldi quel baracchino di Pierpaolo. Io se li conosco il baracchino di Pierpaolo. Guarda, diciamo che è stato l'unico è perché è unico, Pierpaolo è unico, Pierpaolo è anche Antonio, sono due persone squisite, non perché adesso lui è in radio, però lui lo sa, è stato l'unico che mi ha regalato l'antenna, perché lui a me non mi ascoltava quando io sono entrato in frequenza, Giuseppe, avevo un piccolo baracchinetto da 13 e usavo una batteria di macchina, capito, e mi avevo comprato un'antenna che non arrivavo da qui a San Giovanni, mi ha regalato l'antenna, la sera l'ho piazzata e ci siamo sentiti, guarda, per me ero al settimo cielo, quindi vai tranquillo che con Pierpaolo sei una botte in ferro, non perché lui è frequenza, però queste cose le sa. Ma ci credo perché l'ho già provato con mano che cos'è Pierpaolo, figurati che e quando abbiamo piazzato l'antenna è venuto sia Pierpaolo che Antonio e Gianni, e qui il tutto, le misurazioni del cavo e tutte quelle cose lì me le ha fatte Pierpaolo, e cioè certe cose non è che si dimenticano, nel Massimiliano. E secondo te a casa mia che è venuto a piazzare l'antenna? E sarà venuto Pierpaolo. Quelle tre persone che hai detto tu, capito, abbiamo fatto l'antenna, misurazione di cavo, tutto abbiamo fatto, tutto quanto. Però ti dico una cosa, che l'antenna che mi ha dato Pierpaolo è ancora sul tetto, è quanto che sembra, se la vedi sembra un coniglio senza le orecchie, però funziona ancora. Io guarda il tetto che ho sopra la testa è da prendere un attimino con le molle, perché il tetto di casa è a due spioventi, quindi io dico questo, meno ci salgo e forse più mi si allunga la vita, perché quando sali su questo tetto qui sai quando sali ma non sai se rimetti i piedi in terra, Massimiliano, e per questo io che ho affrontato direttamente con la spesa lì, mi hai capito, e niente, dai, l'ho fatta, sto uscendo perché è anche giusto che uscissi dopo tanto, perché anch'io stavo uscendo con un'antennina, Pierpaolo l'ha anche vista, è un antennino che fa ridere a calamita e che va sulla macchina, cioè roba da matti, dai. Vabbè, per iniziare si fa quello e anche altro, Giuseppe. Comunque, dai, tranquillo che hai affrontato una buona spesa, perché quei soldi lì non sono buttati, vai tranquillo che quell'antenna dura anni e anni e anni, anni sul tetto. Almeno sai una volta, tu non stai sempre salendo sul tetto, diciamo a casa mia va anche bene salire sul tetto, quindi posso anche andare, ogni 5 minuti io posso salire dal tetto tranquillamente, però quando ci sono tetti che è anche un po' difficile stare sul tetto, conviene fare una spesa unica e non la fai più, capito? Nel senso che la piazzi una volta e poi non ci sali più, nel senso per un po' di anni, mettendo le corna che non succede niente, hai capito Giuseppe? È solo quello, ho fatto bene, ho fatto una grande spesa. E ancora magari per uscire meglio affronterai altre spese ancora, perché sono sicuro al 100% che affronterai altre cose. Dunque dai, detto questo, rilancio Pierpaolo o Antonio se non si è addormentato. Io sono qua, già, sono sempre qua. Già fatto bene, dai, perché il primo momento voleva comprare la Ringo, solo che non ce la prendono. Non si riusciva a parlare la Ringo, è un'antenna buona, per certo, che può colare la era una persona che è una bomba. Però pure alla fine ha preso quella, la Mantova 1, che va benissimo. E meno male hai preso quella ricca, perché le Mantova 5 stavano difettandosi, cioè praticamente non si staccava la carica, invece la Mantova 1 no, per fortuna, vanno bene già da subito. Una bomba è, già usai, guarda Giuseppe, io tutti mi dicevano mettiti la Mantova 5, la Mantova Turbo, qua che là, bomba. Io ero sempre fissato con la Mantova 1, la 1 abbiamo comprato e la 1 abbiamo piazzato. Proprio se faccia l'iratura che ti faccia tutto di due, No, ce mancherebbe altro, cavolo. E già qui mi sono dovuto fare un'assicurazione io per salire sul tetto, Massimiliano, figurati. Io, e poi te le tengo le rotte. No, scherzando, tu ero una battuta. Gamba. Ciao, ciao, ciao, ciao, una se ne squaccia, davvero. E una che si è rotta, vabbè, quello può capitare, purtroppo quando sali sul tetto può capitare una tavola rotta e cose. Però, Giuseppe, io muratore non l'ho chiamato, però se tu volevi buttare giù l'antenna, conviene che ti porti una mola con lo smeriglio, perché la mia non la butti giù. Ci posso credere, anche noi qui ci siamo dati da fare, Massimiliano, perché ho fatto passare il tubo sotto tetto e gli ho fatto murare tre stampe sotto tetto. Anche le mie sono murate, capito? Mi ha fatto prestare il motopico elettrico e ho bucato tutta la camera del blocchetto. Ma tutta quanta riempita, cemento rapido, piastre, marasurti, poi cemento bello grasso, e gli ho messo due bei pezzi di tubi innocenti, che poi, solo che se lo butta giù il muro, se no l'antenna non la butti giù. Ehi cappa, già va bene così Massimiliano, almeno io ripeto sempre una cosa, fatto fatto, ma almeno guarda, se durasse 15 anni così io sarei stato a posto. Tranquillo che già durava di più, per quello non c'è problema. Ma puoi andare? Avanti Pierpaolo. Riprendo io un secondino, scusate un attimo, dai che qua mi ha chiamato mia moglie, c'è da preparare la pappa alla bambina, devo andare a letto. Vi saluto con la buona notte, grazie del QSO, è stato un piacere, Massimiliano se ne va a dormire. Buona nottata e buon tutto per tutti, dai, ciao ciao. Ciao Massimiliano, ci sentiamo presto e niente, buon riposo a tutti voi, dai, ci sentiamo a presto e avanti Pierpaolo. Ciao Paolo, Massimiliano, saluto al cuore della familiare, ce la riascoltiamo domani alle prossime, dai, ciao Paolo. Ciao Paolo, Massimiliano, ce la riascoltiamo alle prossime. A te, al tuo cuore familiare, ciao Paolo. Ciao. Ho capito, mi hai chiuso. Ehi, cappa. Tu ti stai mettendo un problema che non esiste, non... Ho detto, io non lo uso questo periodo. Se ti capita di usare il canale Alfa, puoi usarlo, puoi fare come vuoi. Se ti stai mettendo questo problema grosso, se me lo vuoi restituire, per forza restituisci, ma poi no. Non è tanto un problema, se mi dovesse servire io te lo chiedo, non metterti problemi, se poi tu decidi che non te ne fai niente, me lo vuoi restituire, vabbè, lo stesso per me non ti voglio mettere niente di cosa, capito? Cappa per papà, e poi domani già ne parliamo in verticale quando ci sentiamo, così almeno mi spieghi anche qualcosina, e piuttosto non per essere sfacciato Pierpa, ma uno di questi giorni quando ti viene bene me lo fai quel foglio dei canali così me lo studio. Il foglio dei canali è già fatto, è pronto, ce l'ho qua, ma lo ricordiamo però. Cappa Pierpa, perché io sto andando un pochino così a fiuto su questo birichino, ma anche giusto per sapere molte volte, no? Secondo dove vogliamo andare, posso seguire anch'io, perché io vado un po' a cosa, dove vi sento lo blocco il canale. Pronto, devo soltanto, era già fatto, ma devo farlo, mi ha chiesto una fotocopia anche Gianni, se non sbaglio chi era, Gianni era. Falchetto. Ah già, no, scusate, Falchetto, sì, è vero, adesso me l'ho dimenticato. Sì, devo fare, ho fatto, quello faccio la fotocopia anche per Falchetto, mi devo ricordare la fotocopia per Falchetto. Cappa Pierpa, non c'è problema, tanto io ti ripeto, alle 3 ho appuntamento con Pomponio, se me lo fa subito è bene, se no glielo lascio e poi niente, quando tu sei a comodo, allora che voi noi ci possiamo sentire, per me non c'è problema. Domani è sabato, io sabato come al solito sono la dentro, quello che esco è un po' difficile. L'opera che esco, già ci sentiamo. Non c'è problema Pierpa, naturalmente senza impegno, se devi uscire va bene, se non devi uscire non metterti assolutamente problema, perché ci si può organizzare come e quando viene più comodo a te. No, io la sabato sera dopo che finisco il lavoro, no, sì, beh, certo riesco, perché devo fare un po' di commissione, quindi esco per forza. Non ti preoccupare, invece ti scocco un caffè. Va benissimo Pierpaolo, il caffè lo sai che è sempre pronto qui, non è quello il problema, poi è sempre un piacere, dai, quando ci si incontra, almeno a farci, e a parte questi cavolo di baracchini, e più che altro è farci anche una chiacchierata così in verticale, giusto per passarci 10 minuti, dai. Invece l'altro, la capito 101, un kilowatt addirittura. Sì, quello fino a un kilowatt, regge fino a un kilowatt. E beh, quello si muove, se devi installare, quello si muove. Kappa, diciamo che come artiglieria non hai pigliare nessuno, caspita. Vabbè, ci siamo sentiti con Gigi Vulcano quando è che sono sceso a Cagliari? 3 giorni fa mi pare, abbiamo preso il caffè assieme qui a Campomela e niente, mi stava dicendo che il tuo deve andare a ritirarlo. Sì, è pronto, devo ritirarlo questa settimana, era in osservazione. Sicuramente sarà a livelli di Radio Criminal al 100%. Vediamo come, se non è esattamente questo, basta che sia anche di così come questo, che non è male, dai. Ma questo che sta uscendo adesso, dici tu? A me hanno detto che è una potenza. Per ci posso credere, con quello sicuramente farei un figurone alla grande. Vabbè, a me non sai cosa è la cosa di questa qualità di Marecchini, questa qualità di Marecchini, la cosa che anche in questo momento fa amplificato, però se tu sì ti sembra amplificato. È la potenza di modulazione che hanno di tutti e allucinanti. Io per esempio adesso il Marecchino è a 3 watt è importante, molta, ma quando io vado a parlare modulo fischio, la portata lo sai che sale a 18 watt. Caspita, 18 watt sono tanti già, Però io metto 3 watt, infatti sono 3 in pratica. Però la cosa che ha il particolare di questa radio, ci fanno sentire di modulazione, e la modulazione è quella che interessa, non tanto la potenza, perché quando ti senti in radio, va bene, è proprio quella peculiarità che hanno questa radio. Questo io lo metto a 3 watt e sale il ciclo di modulazione a 18 watt. Peccato, su quello sono perfettamente d'accordo con te, Pierpa. È inutile avere una bomba sia di Santiago che di cosa quando poi di radio sei basso. La radio per me è tutto. E ti sto dicendo che come sto scendo adesso è perfetta, come che sei qui a fianco a me nella sedia. È bella, chiara. E figurati che sto scendo con 3 watt. Attaccato allo strumento. E quindi cosa fanno quegli apparecchi di strumentale e la modulazione di potenza che ha? Eppure me lo devo prendere uno di quegli apparecchietti e così anche io tengo un pochino sotto controllo la situazione qui. È proprio così, questi sono fatti per una modulazione prepotente. Il segnale poi è quello che è, ma la modulazione nel parlare è quella che io per esempio adesso sto parlando, siccome nello smith questi sono fatti anche per capire la qualità della modulazione e dei dati che sta uscendo, a me non capisco che dallo smith quanti dati stanno andando. Io adesso in questo momento quando parlo, se io mi sto zitto, sono due lati. Quando io vado a parlare c'era 18 lati con lati. Va bene Pierpa. Me lo devo prendere anch'io uno di quegli apparecchietti lì, perché ci vuole via. Piano piano Giuseppe, ce la farai, anche tu piano piano ce la farai. Io so che ci vuole un passo alla volta, anch'io ho fatto piano piano. Adesso mi ritrovo una serie di paesi. Vabbè, ma ogni tanto già hai visto che gli accendo e ci faccio quattro chiacchiere. E a qualcuno che non gli va, questo qua non gli va, ci rilancia più di uno, la verità è. Non so se hai visto, se hai notato, ma non gli vanno a genio. Ma a me non vanno a genio poi K, è vecchio, comunque, vabbè. È un altro discorso, ne parliamo in diversa sede. Detto questo, detto tutto ciò, abbiamo fatto quasi mezzanotte, meno 10. Se poi la mattina devo uscire presto lo stesso, quindi io chiudo qua. Ti auguro una buona notte e una buona giornata per domani. Ci sentiamo domani sera, appena che ho finito, Buonanotte e buon tutto, ce la riscontriamo, ciao. Ok, Pierpa, dai, ti seguo anch'io, perché anch'io domattina, anche se non lavoro, mi devo alzare presto per spese di casa e compagnia bella, dai. E ti auguro anch'io una serena notte, Pierpaolo, e un buon lavoro per domani. E ci sentiamo presto, dai. Ciao Pierpaolo e a presto. Ciao Giuseppe, dai, ci sentiamo domani, ce la faccio. Ciao. Ciao Anto, buonanotte anche a te.